Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale? Questo era nel suo volo in Asia il Papa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che intervistato dai giornalisti a bordo, come sempre, sulla vicenda di Charlie Hebdo, ha detto che non si uccide in nome di Dio, ma se un amico offende mia madre gli do un pugno. Che ne pensate di questa dichiarazione del Papa, che molti hanno letto in un modo, altri nell'altro? Vi invito da subito a coinvolgervi in Effetto Notte con i due canali privilegiati che avete ogni sera, cioè la pagina Facebook di Effetto Notte l'avete in ogni momento, in ogni istante, ovunque siate, e poi in diretta, oltre pagina Facebook di Effetto Notte, c'è anche il 349-238-66 per i messaggi. Che ne pensate di questa dichiarazione del Papa rispetto alla vicenda di Charlie Hebdo? Ci sono altre notizie purtroppo molto negative che riguardano il Belgio, e non soltanto il Belgio, perché evidentemente l'allerta è altissima sugli possibili attacchi terroristici. In compenso è arrivata una bellissima notizia, anche se già ha suscitato polemiche, che è quella della liberazione delle due ragazze italiane che erano state rapite in Siria lo scorso luglio. Vi ricordate, si temeva davvero il peggio, c'erano stati annunci smentiti, e poi finalmente in serata, neanche tanto tempo fa, poco fa insomma, il governo ha ufficializzato che sono state liberate e che presto rientreranno a Roma. Allora, mentre voi pensate ai vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, io come sempre prima di tutto vi racconto in breve la giornata. Sono libere Vanessa e Greta. La Farnesina ha annunciato la liberazione delle due volontarie italiane rapite a luglio in Siria. È quindi finito l'incubo. Uccisi due terroristi in Belgio e uno arrestato in un'operazione antiterrorismo, secondo i media preparavano un attacco a Bruxelles. Charlie Hebdo, oggi ci sono stati i funerali dei vignettisti e Papa Francesco dall'Asia dice: non si uccide in nome di Dio, ma le religioni non devono essere insultate. Svizzera, la banca centrale sgancia il franco dall'euro, spiazzati i mercati. Cuba via libera dagli Stati Uniti a nuove regole per commercio e viaggi, entreranno in vigore domani. Oscar, 9 candidature per Grand Budapest e Birdman, 8 per The Imitation Game. Unica italiana è Milena Canonero per i costumi. E per il calcio, per gli ottavi di Coppa Italia, in campo Juventus-Verona, se non sbaglio l'ultimo aggiornamento, stavo guardando, sì, sono 0-0 per il momento. Partiamo quindi dalla notizia della liberazione delle due giovanissime volontarie italiane, Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, rapite appunto luglio scorso in Siria. La notizia è stata data alla Camera dalla ministra Boschi, forte applauso dell'Aula, ovviamente immensa felicità delle famiglie, lo potete immaginare, delle due ragazze lombarde che ringraziano le istituzioni. Dopo 6 mesi di sequestro, vi dicevo, con annunci smentite, dunque la notizia è finalmente ufficiale. Le due giovani saranno trasferite a Roma per essere interrogate e poi potranno riabbracciare le loro famiglie. E già sono iniziate le polemiche su un presunto riscatto milionario che sarebbe stato pagato, ma di questo parleremo più tardi. Ora invece torniamo sulle notizie cupe con l'operazione antiterrorismo avvenuta oggi in Belgio e della quale ci spiega tra pochi dettagli Sergio Nava. Le operazioni, tra l'altro, contro la jihad che si stanno svolgendo in Belgio in questo momento riguardano 7 paesi europei e lo Yemen, secondo quanto riporta la TV Fiamminga. È così, Sergio Nava? Ciao Sergio. Roberta, così dice la TV Fiamminga, però questo non è stato detto dalla conferenza stampa della procura belga che circa 20 minuti fa ha fatto il punto su questa nuova operazione. Insomma, siamo in un periodo veramente molto molto teso e particolare. Quello che è successo oggi in Belgio è avvenuto a Verviers, che è un comune di 50.000 abitanti vicino al confine con la Germania, nei pressi di Liegi, intorno alle 17.45, nell'ambito di una serie di perquisizioni che si sono svolte non solo a Verviers ma anche a Bruxelles, Molenbeek e Vilvoorde. La polizia si è trovata di fronte a un gruppo appunto di terroristi, di jihadisti, che ha cominciato a sparare contro le forze di polizia che appunto stavano svolgendo queste perquisizioni, tra l'altro nel centro di questa cittadina belga. La sparatoria è durata diversi minuti, alla fine 2 di questi terroristi sono morti, 1 è rimasto ferito ed è stato ovviamente immediatamente arrestato. Il Belgio ha subito alzato il livello di allerta antiterrorismo, anche se solamente per i commissariati, e tra l'altro a quanto sembra, a quanto ha detto la procura, si stavano preparando degli attentati imminenti in Belgio, probabilmente proprio contro la polizia belga, che lo ricordiamo dopo l'attentato. Sergio, perdonami, è un collegamento importante adesso, abbiamo raggiunto Salvatore Marzullo, che è padre di Vanessa Marzullo, una delle due ragazze liberate. E Salvatore, buonasera. Buonasera. Ringrazio intanto di aver risposto. Lei, immagino che questo, in questo momento sia il padre più felice del mondo. Più che felice, felicissimo. Certo. Senta, ma lei aveva già avuto qualche sentore che le cose sarebbero andate bene? C'era abbastanza ottimismo, e mi avevano assicurato che stavano facendo il possibile per risolvere il problema, e ciò che poi si è verificato. Come avete passato, Salvatore Marzullo, questi sei mesi di... Una lunga angoscia che non auguro a nessuno, giustamente. Senta, io le faccio una domanda un po' antipatica, Salvatore. Sì. Ma lei ha lasciato sua figlia così giovane andasse in Siria, in un paese così pericoloso? Non è che l'ho lasciata, era un suo desiderio, era una sua convinzione al 100%, non sono riuscito a dissuaderla, e purtroppo, essendo maggiorenne, io gli ho dato tutti i consigli del mondo, ma ha preso il suo e purtroppo si è rivelato sbagliato. Sono state molto coraggiose, quindi lei ha rispettato la sua volontà. Però molte volte solo il coraggio non serve, bisogna usare la testa col cuore. Erano andate per il secondo viaggio, no? In Siria avevano fatto. La lascerà partire ancora? Non ho capito. La lascerà partire ancora, Vanessa? Non è un discorso da fare in questo momento. Intanto sono contento che sono tornate, ringrazio tutte le nostre istituzioni che hanno collaborato e hanno ottenuto questo risultato, e niente, le auguro una buona serata. Voi, Salvatore, mi dico l'unica cosa state preparando per festeggiarla? Siete in Lombardia, no, voi, sì, vero? Non abbiamo tempo di pensare a niente, pensiamo che dobbiamo ancora incontrarla. Le lascio una buona serata e devo andare, mi scusi. Grazie, Salvatore Marzullo. Grazie. Può darsi che si sia un po' arrabbiato, non lo so, però era un po' da fare questa domanda, insomma. Sergio Nava, sei sempre in collegamento? Sì, sono ancora qui, Roberta. Quindi ci stavi spiegando di quello che è successo oggi in Belgio e di questa operazione, che probabilmente non è soltanto circoscritta a quel momento di oggi, ai due terroristi uccisi e all'altro arrestato, no? Sì, appunto, così dicono alcuni media, si parla di un'operazione congiunta in sette paesi europei nello Yemen. È probabile che ovviamente ci sia un maggiore coordinamento antiterrorismo dopo quello che è successo in Francia. Quello che va detto è che il Belgio è già in forte allerta dopo, lo ricordiamo tutti, l'attentato nel museo ebraico il giorno precedente le elezioni del Parlamento europeo, lo scorso maggio, con alcune vittime, e tra l'altro, a quanto sembra, nel mirino ci potrebbero essere anche le istituzioni europee e la NATO, tanto che guardie armate da questa sera presidiano la Commissione europea, che già nei mesi scorsi ha alzato notevolmente il proprio livello di allerta. È sempre più difficile ora entrare nell'edificio della Commissione europea, quindi chiaramente il Belgio si scopre, o meglio si riscopre, come potenziale obiettivo del terrorismo. Grazie Sergio Nava. Grazie. Ciao Sergio. Ciao. E dal Belgio in Francia, dove ci sono stati oggi i funerali dei vignettisti di Charlie Hebdo 8 giorni dopo l'attentato. Nel giorno dei funerali di 5 vittime della strage a Charlie Hebdo, la Francia ricompensa Lassana Bathily, l'eroe musulmano che aiutò diversi ostaggi a nascondersi da Mehdi Coulibaly nelle drammatiche ore del sequestro all'Hypercacher. Secondo il ministro dell'interno Bernard Cazeneuve, Bathily sarà naturalizzato francese già martedì, dopo 8 anni di permanenza oltralpe. Oggi le esequie di 5 vittime dell'attentato contro la redazione, tra loro i disegnatori di punta Volinsky e Tignoux. La bara di quest'ultimo nel funerale celebrato a Montreuil, a sud di Parigi, è stata letteralmente inondata di scritte e disegni in suo onore. Ce sont les musulmans qui sont les premières victimes. Intanto il presidente francese François Hollande, in una visita all'Istituto del Mondo Arabo, ha lanciato un messaggio di apertura al mondo islamico moderato. Sono i musulmani le prime vittime del fanatismo, del fondamentalismo e dell'intolleranza, ha detto. La Francia è il paese di Voltaire e dell'irriverenza, abbiamo il diritto di ironizzare su tutte le religioni, ha poi rilanciato il ministro della giustizia Christian Taubira. L'ultimo numero di Charlie Hebdo, andato esaurito in tutte le edicole, ha attirato nuove critiche di Hamas, del parlamento pakistano, che ha definito quelle su Maometto caricature blasfeme, e anche dei talebani, che sono tornati a minacciare di morte la redazione del settimanale satirico. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto nel dibattito sulla satira di Charlie Hebdo arriva una voce contraria, proprio da uno dei fondatori del settimanale. Ora il dissenso viene dall'interno. Stavolta è uno dei fondatori di Charlie Hebdo a scagliarsi contro la satira della settimanale e contro la linea dell'ormai ex direttore. È colpa tua, Sharb, tuona del Feldeton. Dalle colonne delle Nouvelle Observateur, dove lavora dal 75, quest'altro storico vignettista del giornale apre una profonda crepa nel fronte della provocazione ad ogni costo e si chiede che bisogno c'era di trascinare tutti in questa escalation. Cita Deton anche le perplessità di Walinsky, altra vittima dei terroristi, quando nel 2011 il giornale uscì con la testata modificata in Sharia Hebdo. Corriamo un rischio inutile, per anni, avrebbe detto quest'altra celebre firma, si fa provocazione, poi un giorno ti si ritorce contro. Allora quel titolo costò alla testata l'incendio della redazione, ma il mio capo, come l'ottantenne Deton chiama l'ex direttore Sharb, era un ragazzo brillante ma testardo, dice, e l'ha rifatto nel 2012 e poi ancora. Parole che irrompono nel dibattito internazionale su satira, religione e provocazione, parole che arrivano insieme all'ultima minaccia talebana, secondo cui la nuova caricatura di Maometto andata a ruba in tutto il mondo è un invito ad uccidere. La firma è del TTP, il gruppo estremista pakistano già responsabile della strage in una scuola. Gente a cui di certo non piace scherzare. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E poi parleremo anche del viaggio in Asia del Papa, che, come avevo fatto sentire all'inizio, nel volo tra lo Sri Lanka e le Filippine è intervenuto direttamente sull'attentato su Charlie Hebdo e ha detto: non succede in nome di Dio, ma le religioni non si insultano. Poi parleremo in modo più approfondito anche di questo argomento. Restiamo all'estero, con gli Stati Uniti che danno il via libera a nuove regole per il commercio e i viaggi verso Cuba, togliendo la maggior parte delle restrizioni attuali. Questo è coerente con quanto avevano annunciato circa un mese fa, lo scorso mese. Sì, dicendo che, e così giustifica la Casa Bianca, crediamo che la via migliore per sostenere gli interessi e i valori degli Stati Uniti sia quella dell'apertura e non quella dell'isolamento. La decisione di oggi rappresenta, dice la Casa Bianca, un grande passo in avanti nella direzione indicata dal Presidente Obama con i cambiamenti storici annunciati lo scorso mese. E questa mattina c'è stato un annuncio importante che è arrivato dalla Svizzera. La Banca Centrale Elvetica ha deciso di cancellare il tetto fisso del cambio franco-euro e di tagliare il tasso sui depositi a meno 0,75%. Poi cercheremo di capire più tardi che cosa significa e cosa questo comporti. Andiamo in Italia, invece, su Notizie Italiane. In attesa del voto per il Quirinale, tiene banco il braccio di ferro tra maggioranza e opposizione sulla riforma. Un incrocio parlamentare che resta a rischio, quello tra riforme ed elezione del capo dello Stato. I tempi infatti stringono. Il primo scrutinio per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica è fissato per il 29 gennaio. Da qui la preoccupazione del governo che l'atteggiamento delle opposizioni impedisca di approvare al Senato la legge elettorale e alla Camera la riforma della Costituzione, così il ministro delle riforme Boschi. Non possiamo immaginare che richieste continue di modifica diventino un modo per bloccare la legge elettorale. Non si stravolga l'andamento dei lavori, aggiunge la Presidente della Camera Boldrini, che apre tuttavia alle richieste delle opposizioni perché si abbia lo spazio necessario per riunioni sul Quirinale. Dal PD intanto la Serracchiani ricorda: per il Colle serve una larga condivisione a partire da Forza Italia. La minoranza PD tuttavia frena e chiede che si superi il patto del Nazareno. Dai 5 Stelle Fico quindi commenta: se fosse un nome di garanzia non ci sarebbe problema. Non vedo perché ci dovremmo in sé sottrarre, ma sempre poi con un percorso partecipato, trasparente e chiaro, quello che questo Parlamento non fa mai, e in rete con tutti gli iscritti del movimento. Grillo boccia infine le ipotesi. Veltroni, fino a Chiaro e Prodi, nomi li definisce da tunnel degli orrori. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per il Piemonte arriva un primo giudizio per lo scandalo delle cosiddette spese pazze degli ex consiglieri regionali. Tutti assolti, per ora è solo la prima tranche. Adesso invece parliamo di scuola. Fino al 15 febbraio è possibile iscrivere online i propri figli alla prima classe di ogni ordine di scuola. Oggi, nel primo giorno utile, pare che sia andato tutto liscio. Se avete dubbi o domande, la cosa migliore è ascoltare questa sera, dopo alle 22, dopo Effetto Notte, lo speciale scuola condotto da Piera Ceci. Piera... Sì, Roberta, allora il primo giorno di iscrizione online è andato, infatti da oggi le famiglie avranno un mese per iscrivere i propri figli al primo anno di scuola di ogni grado, ad eccezione fatta delle scuole dell'infanzia e le paritarie. Poco fa il Ministero dell'Istruzione ha fatto sapere che sono state oltre 67.000 oggi le domande inoltrate e oltre 225.000 le registrazioni. Il sistema è rodato, ha commentato ai nostri microfoni il Ministro Giannini, ma il difficile non è tanto nell'iscrizione, ormai le procedure online hanno spaventato. Quindi i genitori sono sempre ancora più tecnologici? È per i ragazzi di 13 anni decidere a quale scuola superiore iscriversi. E allora, per le famiglie che avessero ancora qualche dubbio, come dicevi anche tu Roberta, dopo Effetto Notte andrà in onda lo speciale Scuola quale superiore per i nostri figli. Fra gli ospiti gli esperti di Scuola 24, il quotidiano digitale del Sole 24 Ore, il ministro dell'istruzione Stefania Giannini, Daniele Grassucci di Scuola.net, Mario Rusconi dell'Associazione Nazionale Presidi, Maria Rosaria Mancinelli, che ha scritto un libro proprio sulla scelta per studenti e genitori, Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli. Le vostre domande in diretta all'800 24 00 24 oppure via mail a scuola@radio24.it. Vi aspetto. Genitori e studenti di tutta Italia, unitevi quindi dopo le 22 per ascoltare lo speciale Scuola qui su Radio 24. Parliamo anche di cinema. Sono state annunciate oggi a Los Angeles le candidature agli Oscar. I film candidati al maggior numero di statuette sono Birdman e Grand Hotel Budapest. Poi ne parliamo in modo più approfondito. E per chiudere il calcio, Coppa Italia anche questa sera, ottavi di finale tra Juventus e Verona per la qualificazione ai quarti. Appena fatto un gol, no, gli ha fatto da qualche tempo 1-0 la Juventus, mi dicono, mi aggiornano, qui c'è invece un sito che dice 0-0, ma è 1-0. E gli altri aggiornamenti tra poco. Vi ricordo che c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, se volete potete commentare quello che ha detto oggi il Papa o altre cose, la notizia che è arrivata poco fa. Abbiamo sentito anche il padre di una delle due ragazze liberate in diretta poco fa. E poi al 349-238-6666, aggiorniamo però prima che viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci subito insieme, tra poco parleremo delle due ragazze liberate, poi naturalmente tanti altri argomenti. Leggevo qualche commento già, vi ho detto che ci sono inevitabili le polemiche. Dice un ascoltatore: felicitazioni per la liberazione delle nostre italiane, spero tanto che nessuno abbia cattivo gusto di esclamare siamo pronte a tornare per ultimare le nostre missioni, prendi due paghi tre, limitare i propri rischi non coinvolgendo il mondo intero, dice un ascoltatore, Cosimo da Pistoia. Invece ne vedevo un altro sempre un po' di questo tenore, che dice: mi raccomando, non correte i rischi poi a spese di altri. Insomma, sono state sicuramente due ragazze coraggiose, ma in questo momento è troppo rischioso andare in certi paesi, forse è meglio evitare, soprattutto quando si è così giovani e inesperti. Vi riassumo brevemente le notizie. Come dicevo, Greta e Vanessa sono libere, presto saranno in Italia, ridda di voci e smentite sulle due ragazze italiane, poi l'annuncio del governo. Blitz in Belgio, uccisi due jihadisti, uno rimasto ferito, preparavano degli attentati a Bruxelles, venivano dalla Siria. Quirinale, Renzi in bilico fra il patto del Nazareno e la minoranza PD, trattative tra i partiti, Berlusconi intanto cerca di compattare Forza Italia. Il Papa dice non deridere le religioni, mentre la Francia rivendica la propria libertà e Olanda dice musulmani. Presidente francese, voi siete le prime vittime del fanatismo. La Svizzera, sorpresa, sblocca i cambi, l'euro ai minimi, e poi di questo parleremo. Il governo spinge intanto, il governo italiano, sulle riforme, scontro tra Forza Italia e Partito Democratico. E poi l'Europa in campo, per i Marò devono tornare in Italia, il Parlamento approva una risoluzione. E le nove nomination per quanto riguarda gli Oscar per Grand Budapest Hotel e anche per Burnett. Ed eccoci dunque arrivati dopo tante cattive notizie, dicevo una dopo l'altra in questi giorni, finalmente una buona: Greta e Vanessa sono libere. La notizia è arrivata dopo voci insistenti sulla conclusione oggi della trattativa per la liberazione delle due ragazze volontarie italiane, appunto Vanessa Marzullo e Greta Ramelli, che erano state rapite a fine luglio in Siria. Poi la trattativa si è sbloccata, appare, sabato scorso, quando è arrivato un video che ritraeva le due ragazze. È stato il segnale da parte dei rapitori che le ragazze erano ancora in vita e quindi che si poteva pianificare la riconsegna agli emissari italiani. L'ultimo appello, se vi ricordate, c'era stato lo scorso 31 dicembre, era stato diffuso un video tramite YouTube con una richiesta di aiuto, un appello al governo italiano delle due ragazze. Sentiamolo. Io, Greta Ramelli e Vanessa Marzullo. We supplicate our government and its mediators to bring us back home before Christmas. Le ragazze che pregano il governo italiano di riportarle a casa prima di Natale, perché appunto era stato a dicembre e dicevano siamo in grave pericolo, aiutateci, e poi evidentemente appunto si è arrivati a una trattativa e a un accordo. Sentiamo anche come è stato, come è arrivato oggi l'annuncio in Italia ufficialmente, diciamo c'erano state varie agenzie in descrizioni, però l'annuncio ufficiale poi è arrivato nell'aula di Montecitorio dalla ministra Boschi. Grazie Presidente, mi scuso con l'onorevole per non aver seguito il suo intervento nella parte finale, ero però al telefono con Palazzo Chigi e sospendo un attimo la discussione che stiamo affrontando sulle riforme costituzionali per annunciare all'Aula una notizia che credo farà piacere a tutti noi, che Greta e Vanessa sono state liberate e torneranno presto a casa. E quindi dopo, diceva la ministra Boschi, perché c'era stato un intervento di una deputata del Movimento 5 Stelle che si era un po' irritata perché la ministra era al telefono ed era al telefono per questo motivo, dopo sei mesi di sequestro, quindi con momenti anche molto complicati, le due ragazze saranno trasferite a Roma dove saranno interrogate, poi potranno riabbracciare le loro famiglie. Vi ricordo che la Marzullo, 21 anni, studia mediazione linguistica e culturale all'Università di Milano, dove ha cominciato a imparare l'arabo oltre all'inglese, è di Brembate nel Bergamasco, mentre la Ramelli, 20 anni, originaria di Gavirate nel Varesotto. Prima abbiamo sentito il padre di Vanessa Marzullo, ho sentito proprio in apertura, vogliamo risentirne un passaggio se non avete sentito prima. Immagino che questo, in questo momento sia il padre più felice del mondo. Più che felice, felicissimo, certo. Senta, ma lei aveva già avuto qualche sentore che le cose sarebbero andate bene? C'era abbastanza ottimismo e mi avevano assicurato che stavano facendo il possibile per risolvere il problema, e ciò che poi si è verificato. Come avete passato, Salvatore Marzullo, questi sei mesi di... Lunga angoscia che non auguro a nessuno, giustamente. Senta, io le faccio una domanda un po' antipatica, Salvatore. Sì. Ma lei ha lasciato sua figlia così giovane andasse in Siria, in un paese così pericoloso? Non è che l'ho lasciata, era un suo desiderio, era una sua convinzione al 100%, non sono riuscito a dissuaderla e purtroppo, essendo maggiorenne, io gli ho dato tutti i consigli del mondo, ma ha preso il suo e purtroppo si è rivelato sbagliato. Sono state molto coraggiose, quindi lei ha rispettato la sua volontà. Però molte volte solo il coraggio non serve, bisogna usare la testa col cuore. Questo è il padre di Vanessa Marzullo. I media arabi hanno twittato che è stato pagato un grosso riscatto. È stata la TV satellitare araba Al-An. Ha detto il fronte al-Nusra, che sarebbe quello che ha rapito le ragazze, avrebbe liberato le due ragazze rapite in Siria la scorsa estate con un riscatto che ammonterebbe a 12 milioni di dollari. Questa notizia non è stata confermata, ma già sta creando polemiche. Il leader del Lega Salvini ha detto, se è vero, è uno schifo. Ma coinvolgo Stefano Torelli. Buonasera. Buonasera. Ricercatore dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Quindi si è arrivati a questa conclusione, Torelli. La Siria in questo momento, tra l'altro, a che punto è? Perché un po' si rischia di dimenticarla. Beh sì, purtroppo si rischia di dimenticarla, soprattutto in mezzo a tutte le altre vicende che sfortunatamente stanno accadendo in Medio Oriente e non soltanto, anche alle porte di casa nostra, come i fatti di cronaca purtroppo ci ricordano. Però è bene invece ricordare che effettivamente in Siria è ancora in corso, ormai da più di 3 anni, uno dei conflitti più sanguinosi di tutto il mondo, se non forse il conflitto civile più cruento e più violento del mondo attualmente. Sul campo la situazione è una situazione ancora completamente di stallo, se così si può dire. Non vi sono forze in campo dall'una o dall'altra parte che stanno prevalendo sull'altra, non ci sono purtroppo segnali di ottimismo circa la possibile fine di questo conflitto. È una situazione che ormai è incancrenita, devo dire, anche per probabilmente una negligenza anche degli attori internazionali, della comunità internazionale, che ha sottovalutato i rischi che cui andavamo incontro nel lasciare che la situazione in Siria insomma, perdesse il controllo in questo modo. E dunque appunto la Siria è un paese sostanzialmente in guerra, una guerra che per il momento non vede fine, una guerra che purtroppo produce vittime, migliaia di morti, produce un sacco di sfollati che poi arrivano anche sulle nostre coste, scappano giustamente. Torelli, tra l'altro, la Siria è diventata un vivaio, cioè una produttrice di terroristi, o forse anche un ricettacolo di terroristi, tutti questi foreign fighters di cui si parla, no? Che vanno dalla Francia ad altri paesi a combattere lì. Infatti più che, in effetti più che un vivaio direi proprio un ricettacolo, nel senso la Siria, come già è accaduto in altri teatri, in altri contesti e in altre epoche, è adesso un po' il teatro per eccellenza del jihad globale. Quello che accadeva in Afghanistan negli anni 80 quando vi era in corso l'invasione sovietica, quello che accadeva nello stesso Afghanistan e poi in Iraq tra il 2001 e il 2003 e fino al 2006, insomma è oggi lo stiamo vivendo in Siria, ed è normale purtroppo che lì dove vi sia una situazione di forte instabilità e di carenza sostanzialmente di controllo da parte di un'autorità centrale e di conflitto, è lì che si concentrano queste forze. Torelli, si sente di dare un suo parere su questo possibile eventuale riscatto di 12 milioni, dice questa TV araba? Ma guardi, sinceramente io non credo neanche che adesso sia il momento di giudicare, non giudicare o cercare di parlare di questa cosa. Posso soltanto dire che insomma mi sembra abbastanza evidente che insomma in alcuni casi vi sono stati insomma governi più inclini, diciamo, a pagare dei riscatti rispetto ad altri, però ecco in questo caso è una cosa che probabilmente ufficialmente non sarà mai confermata, di cui noi non potremo mai avere certezza, ripeto, al momento sinceramente mi sembra anche una questione secondaria, soprattutto in questo momento in cui insomma stiamo commentando dei fatti che sono appena avvenuti, e quindi anche perché Torelli probabilmente non c'era altro modo, poi non lo so, non si conferma nessuna notizia al momento, ma qualche scambio ci sarà stato, perché è difficile che terroristi di questo tipo, di questa levatura, diciamo tra virgolette, possano semplicemente essere generosi in questo senso. Torelli, io intanto la ringrazio, buona continuazione Stefano Torelli. Grazie, leggevo già messaggi critici. Enzo che dice che le due fanciulle proseguono il volontariato in ospedali e stazioni ferroviarie, comunque in Italia che c'è un gran bisogno. Pierpaolo da Roma, dovrebbero essere messe ai servizi sociali e pagare il danno erariale. Insomma, comunque è il caso evidentemente in questo momento di non raggiungere paesi di questo tipo. Intanto il paese, anzi diciamo il continente dove viaggia il Papa in questo momento, in questi giorni, è l'Asia. Oggi nella notte, diciamo, italiana, dallo Sri Lanka a Manila nelle Filippine, i giornalisti che lo seguono hanno fatto varie interviste naturalmente a bordo dell'aereo, e lui fra le varie cose ha detto questo. Violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno, ma è normale. Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, ciao Carlo. Ciao, buonasera a voi. Questa frase del Papa molti l'hanno interpretata in modo diverso, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, dico anche opinioni generali, poi qui dico Effetto Notte 349-238-6666. Alessandro dice: un Papa fantastico, per me è più rivoluzionario di Che Guevara. Antonio: porgi l'altra guancia, non vale più. Vittorio: ma se avesse detto mi arrabbio forse sarebbe stato meglio. E qualcun altro che invece dice: in questo modo si rischia di legittimare gli integralisti. Che ne pensi di queste dichiarazioni del Papa? Ma naturalmente no, allora il Papa, diciamo così, questa è la prima volta che parla in maniera molto molto chiara e dilungata della strage di Parigi. Aveva fatto, insomma, c'erano state delle dichiarazioni ufficiali scritte chiaramente di condanna. Oggi ha detto due cose: è un'aberrazione uccidere in nome di Dio, e questo era, diciamo, un tema già, diciamo così, trattato. La novità di oggi è che dice: le religioni non vanno insultate, le religioni non si insultano. Bisogna rispettare la libertà di opinione arriva fino a dove non insulta. Anche questa, diciamo così, di per sé non sarebbe una novità. Il fatto è che lo dice il Papa, questo Papa, che diciamo così è del dialogo, della grande apertura, insomma, che viene letto anche un po' così dal fronte laico come estremamente aperturista, oggi ha messo un paletto. Perché un paletto? Un po' perché sta dicendo una cosa che diciamo sì, di per sé ha un senso, dall'altra perché la religione, diciamo, la religione cattolica, la Chiesa cattolica, anche proprio il giornale Charlie Hebdo, diciamo così, l'attaccava costantemente, c'erano insomma Maometto ma anche i papi regolarmente in questa, e questo ha creato dentro la Chiesa un forte dibattito. Cioè in Francia ci sono stati diversi esponenti della Chiesa cattolica che hanno detto: io non sono Charlie, perché? Perché sì, siamo vicini ai morti, ma non ci identifichiamo con un giornale come così. E infatti c'è stata una forte polemica, diciamo marginale, ma insomma nella Chiesa ha avuto un suo risalto perché una rivista francese dei gesuiti ha ripubblicato le vignette, e alcuni cardinali francesi, che attenzione sono progressisti nel panorama globale della Chiesa cattolica, non sono, si sono un po' dissociati, nel senso di dire qui non significa essere d'accordo con, però neanche applaudire a un certo tipo di attacchi che noi subiamo quotidianamente. Quindi il Papa in questo ha parlato sia dentro che fuori, ed è questa un po' la novità, cioè si deve reagire anche quando uno viene attaccato, naturalmente non sparando, ma esprimendo magari la propria opinione in maniera molto decisa. Carlo, abbiamo ancora un minuto, leggo tra gli altri un messaggio di Alessandro che dice: Inquisizione, guerra per la Terra Santa non sono state invenzioni cattoliche, è vero, ma per fortuna fanno parte del passato. Però esatto. Carlo, per chiudere proprio brevemente, sta avendo una buona accoglienza in Asia il Papa? Estremamente, ma allora diciamo così, è passato da un paese dove i cattolici dello Sri Lanka sono proprio una piccola minoranza, poco più di 1 milione, stanno invece nelle Filippine, che è invece il cuore cattolico dell'Asia, l'unico paese a stragrande maggioranza cattolica, sta avendo grande, diciamo così, l'Asia è centrale nell'agenda del Papa, in testa tutto c'è l'Asia e poi subito dopo l'America Latina, perché questa è la mia opinione ma credo sia condivisa, lui c'ha in testa la Cina e tutto questo. Grazie Carlo Marroni. Grazie a voi, grazie a te. Ciao Carlo. Ciao. Prendiamoci questa pausa, tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci ancora insieme, Roberta Giordano sempre con voi. Vedo anche un'agenzia di questi istanti, a proposito di Belgio, che la polizia ha trovato un esplosivo in un palazzo. Sapete che sono stati uccisi 2 terroristi, oggi un altro è stato arrestato, insomma c'è un'operazione antiterrorismo in Belgio, ma che potrebbe riguardare anche al di fuori delle frontiere il Belgio e i paesi insomma circostanti in Europa. Sicuramente non è un buon momento, ma è arrivata la buona notizia, lo sapete oggi e ve la ricordo tra quelle principali. Sono libere Vanessa e Greta, la Farnesina ha annunciato la liberazione delle 2 volontarie italiane rapite a luglio in Siria. Abbiamo sentito poco fa il padre di una delle 2 in diretta. Belgio, uccisi 2 terroristi e 1 arrestato in un'operazione antiterrorismo. Secondo i media preparavano un attacco a Bruxelles. Charlie Hebdo, oggi ci sono stati funerali dei vignettisti. E Papa Francesco dall'Asia dice: non si uccide in nome di Dio, ma le religioni non devono essere insultate. Svizzera, la banca centrale sgancia il franco dall'euro, di questo parleremo tra poco. Cuba, via libera degli Stati Uniti a nuove regole per commercio e viaggi, entreranno in vigore domani. Agli Oscar 9 candidature per Grand Budapest e Birdman, 8 per The Imitation Game, unica italiana è la costumista Milena Canonero. E per il calcio, Juventus-Verona, vediamo che punto sono, 2-0 per la Juventus. Adesso invece parliamo di questa decisione presa dalla Svizzera, la mossa della Banca Centrale Svizzera che sgancia il franco dall'euro, e i mercati poi sono andati in tilt. In un comunicato alla Banca Centrale cosa ha spiegato? Ha detto: è stata una misura eccezionale e temporanea che ha protetto l'economia svizzera da seri danni. Ora non so quanti di voi sanno bene interpretare le cose che ci sono dietro a queste dichiarazioni, a queste misure, ma naturalmente ci aiuterà il nostro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Alberto. Buonasera a tutti. Buonasera, ciao. Ciao Alberto. Che significa che la Banca Centrale Svizzera sgancia il franco dall'euro? Ma la Banca Centrale Svizzera teneva il cambio del franco sull'euro a 1,20 da 3 anni a questa parte. Per 3 anni ha resistito mantenendo questo livello di cambio che era considerato da loro congruo, continuando a comprare obbligazioni denominate in euro in grandi quantità naturalmente. Alla fine però si sono resi conto che stavano trasformando gran parte delle loro riserve in titoli e in valuta appunto euro, e questa cosa risultava insostenibile, motivo per cui hanno deciso oggi con un blitz a mercati aperti tra l'altro di abbandonare la soglia. Il contraccolpo immediato è stato che il franco si è rivalutato immediatamente di quasi 40 punti, 32%, creando un grande panico nelle aziende esportatrici della Svizzera, naturalmente. Pensiamo solo agli orologi e tutto il resto. Insomma. E il cioccolato, Alberto, ti devo dire però che mentre appunto la dichiarazione della Banca Centrale Svizzera era che in questo modo ha protetto l'economia svizzera, l'Lindt, che è uno dei principali produttori di cioccolatini, tu hai citato gli orologi naturalmente, ha spiegato in una nota che le esportazioni dirette dalla Svizzera soffriranno a causa di questo cambio e quindi che cosa ha deciso di fare? Di spostare alcune produzioni in stabilimenti che sono fuori dalla Svizzera. Non mi sembra un gran guadagno per la Svizzera questo? No, ma diciamo che è una giornata in cui la Svizzera fa i conti su quello che vuole essere da grande, cioè se essere un paese che ha una parte di economia reale, di vocazione manifatturiera e non solo manifatturiera, oppure vuole diventare effettivamente un paradiso finanziario, un luogo che concentra tutte le attività strettamente sui servizi e sull'attività finanziaria, perché probabilmente chi fa finanza diciamo da questo tipo di impennata del cambio non subisce grandi contraccolpi. Il problema sono appunto per le aziende esportatrici, ripeto, chi oggi si è visto impazzire il cambio e ha dovuto pensare che deve rivedere i propri listini prezzi per l'estero di quasi il 40%, evidentemente ha sudato freddo parecchio. Poi la cosa si è un po' assestata e l'incremento finale è risultato intorno al 20%, però insomma la giornata è stata molto turbolenta ed erano anni che non si vedevano una vivacità di questo tipo sul mercato dei cambi, che in genere invece era sonnacchioso, diciamo così, tra le dinamiche che riguardavano la Cina, il Giappone, l'euro e il dollaro, ecco, ma con cose molto più controllate e con impennate assai meno vistose. L'ultima era quella del stato il rublo, ecco. Alberto, però ti chiedo una cosa e prima che tu mi risponda ti mando anche un passaggio vocale, nel senso mi chiedo se a questo punto potrebbe farlo qualche altro stato e ti faccio sentire questo Berlusconi che dice, mi pare ieri, a proposito di una possibile seconda moneta in Italia. Altra misura indispensabile è che il nostro paese si possa dotare di una seconda propria moneta, recuperando parte della propria sovranità monetaria. Un'altra moneta per gli affari quotidiani, con cui le aziende possono pagare gli stipendi, con cui chi lavora possa fare gli acquisti, lasciando all'euro gli impieghi più importanti. Ti sembra una cosa simile o c'entra poco, Alberto? No, è una provocazione intelligente, perché è chiaro che il dibattito dopo una scelta di questo genere si apre subito. È chiaro che se l'Italia avesse fatto una scelta del genere avrebbe avuto un contraccolpo al contrario, probabilmente con un impatto svalutativo molto cospicuo, ma diciamo la vera lezione che viene fuori da questa giornata è che i flussi dei capitali e le politiche monetarie da sole praticamente non bastano più, ma più si è piccoli più si è a rischio, francamente. Quindi abbandonare l'ancoraggio sicuro, direi, dell'euro, perché oggi l'euro rispetto al franco è risultato una moneta di tutto rispetto, evidentemente, sarebbe un rischio molto pesante per un'economia come quella italiana, che è interconnessa e che naturalmente ha un'enormità di emissioni di obbligazioni denominate comunque in euro, che dovrebbero saltare e dovrebbero essere tutte ricalcolate, probabilmente salterebbe il paese e salterebbero anche i nostri creditori, quindi non è assolutamente una strada da perseguire. Grazie Alberto Orioli, buon lavoro. Grazie a voi tutti. Ciao Alberto. Aggiorniamo chi sta viaggiando. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ce n'è ancora da raccontarvi e intanto vi riassumo, se avete acceso l'orario in questo momento, ma ricordatevi che Effetto Notte inizia sempre alle 21, vi ricordo le notizie principali, che sono la liberazione di Greta e Vanessa, due ragazze rapite a luglio in Siria, rida di voci smentite sulle due italiane e poi l'annuncio. Abbiamo sentito, vi ricordo qua Effetto Notte, diciamo mezz'ora fa, il padre di una delle due. Blitz in Belgio, uccisi due jihadisti, uno è stato arrestato, preparavano attentati a Bruxelles, venivano dalla Siria. Quirinale, Renzi in bilico fra il patto nazareno e minoranza PD, trattative tra i partiti. Berlusconi intanto cerca di ricompattare Forza Italia. Il Papa dice nel suo viaggio in Asia: non deridere le religioni, bisogna rispettarle, e la Francia rivendica la sua libertà in tutto. La Svizzera sorpresa, ne abbiamo appena parlato, sblocca i cambi. E poi l'Europa in campo per i Marò, devono tornare in Italia. Il Parlamento approva una risoluzione che chiede il cambio giurisdizionale. E ci sono 9 nomination per Grand Budapest Hotel, sono arrivate oggi ufficialmente. Specialmente è anche una italiana che riguarda la costumista Canonero. Europa 24 notte. Parliamo di un'Europa unita contro la violenza sulle donne, più tutela per le vittime di violenze domestiche e di stalking. Ad assicurarla è l'Unione Europea, con un protocollo di norme entrato in vigore domenica scorsa, grazie al quale gli ordini di restrizione, di protezione e allontanamento emessi in uno Stato membro saranno riconosciuti in tutta l'Unione Europea in modo rapido e semplice mediante una certificazione. In questo modo chi ha subito abusi domestici potrà d'ora in avanti viaggiare in sicurezza al di fuori del proprio paese di origine. Ma sentiamo se davvero sarà così, cosa ne pensa di questa normativa Gabriella Moscatelli, che è presidente di Telefono Rosa, al microfono di Alessandra Schepisi. L'avevamo seguita, eravamo stati anche a Bruxelles nel momento in cui doveva passare alla Commissione, e l'avevamo trovata delle norme veramente importanti, perché è nato il tutto da una giovane signora che aveva l'ordine di protezione nel paese di origine, appena sbarcata a Bruxelles era stata ammazzata dal marito. E allora da lì era nata tutta un movimento che si è tradotto poi in questa legge. Quindi i risultati, secondo me, saranno, se già non ci sono stati, positivissimi, proprio perché in tutta sicurezza, nel momento in cui tu sbarchi in questo paese, fai presente che tu hai questo ordine di protezione, e quindi la polizia si può muovere come si muove in Italia quando hai l'ordine di protezione. Possiamo ricordare un po' la portata di questo fenomeno, anche i dati che magari avete voi come Telefono Rosa? Dunque, io come Telefono Rosa vi dico che nel 2003 abbiamo avuto circa, che riguardano solo la violenza, circa 1200 telefonate. Nel 2014 sono alzate e sono arrivate a 1500. Quindi che significa? Significa che probabilmente le donne hanno più capacità e più voglia di denunciare, e sanno che ci sono dei punti di riferimento. E questi miei dati vengono in un certo senso confortati dal 1522. Noi gestiamo per conto del Dipartimento delle Pari Opportunità il 1522. Ora il 1522 nel 2014 è stato chiamato, e ci riferiamo solo a segnalazioni che riguardano violenze nei confronti delle donne. Bene, abbiamo ricevuto 25.000 telefonate da tutta Italia. Quindi, come vede, sono fenomeni che... Cioè, fenomeni in crescita oppure in crescita? Certamente in diminuzione. O in crescita la consapevolezza, la voglia di denunciare anche. Cioè, noi per esempio che cosa vediamo quando c'è un servizio come quello che lei sta preparando? Io le ho parlato del 1522, come il servizio va, il telefono... le telefonate aumentano in maniera notevole. Cosa auspica? Siamo all'inizio del 2015, un suo auspicio per quanto riguarda la condizione delle donne? Noi dobbiamo lavorare soprattutto sull'educazione, sulla formazione sin dalla prima, proprio dalla scuola elementare, per insegnare ai ragazzi il rispetto di genere, il rispetto verso l'altro, e soprattutto che la violenza non porta a nulla, ma è attraverso la parola che noi ci facciamo le nostre ragioni. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Siamo finiti qui, in questa fogna. Eri una star del cinema, ricordi? Ebbene sì, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, c'è anche il cinema nel menù di questa sera di Effetto Notte, perché oggi sono state rese note le nomination agli Oscar a Los Angeles. Quest'anno pare che la sfida sia piuttosto accesa, perché sono numerose le candidature di alto livello che rendono difficile quindi anche fare delle previsioni su chi vincerà. Sicuramente bisogna dire che la sfida più grossa è tra due film, Birdman, di cui avete appena sentito un trailer, e Grand Budapest Hotel, che hanno avuto tutte e due 9 candidature. Ma subito chiamo in causa il nostro Franco D'Assisi. Ciao caro Franco. Ciao, ciao Roberta, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori, il che nostro... spero siano un giorno anche i miei. Ma magari certamente, alla Rosa però... Purpure a sabato alle 18.05 non mancano mai, credo, è vero, quelli che sentono l'effetto notte poi immediatamente così da d'amblè vanno il sabato ad ascoltare Franco D'Assisi alla Rosa Purpure alle 18. Franco, dicevo bene quindi che sì, sono tutti ad alto livello questi film, tu puoi fare delle previsioni, però intanto parlaci di quelli che sono più... sotto i riflettori, che sono appunto assolutamente Grand Budapest Hotel, e Grand Budapest Hotel, che è, a loro modo sono comunque due scelte di grande qualità. Devo dire, piccola premessa, è da qualche anno che gli Oscar, siccome quelli gli americani sono avanti in questo, hanno capito perfettamente che bisogna inseguire non tanto più il mainstream fine a se stesso, quanto una qualità di un film indipendente ma da studios, quella via di mezzo tra il cinema che sembra, almeno appare esteticamente, come un cinema più pulsante, più vivo, più coinvolgente, quindi più coinvolgente e legato magari a tematiche, anche con qualche graffio registico, con qualcosa di importante, che non sia però il prodotto chiuso, fatto e finito col fiocchetto da studios americani. Questo loro l'hanno capito, e siccome loro poi fanno tendenza, quello diventa il mainstream, ed è una tendenza che è in atto da qualche anno. Quanto a quest'anno, sicuramente Birdman, apertura del film del Festival di Venezia, questo fa grande onore insomma alla mostra italiana, perché tu hai voglia a dire, però insomma bisogna avere l'occhio per andare a prendere i film, e in quel caso è stata una grande idea quella di aprire con questo film, che io trovo straordinario, tutto girato in un teatro di Broadway, dove un attore, in questo caso un Michael Keaton, che si prende la nomination a sua volta, è inseguito dalle ombre di se stesso, sostanzialmente una sorta di schizofrenia che si manifesta con una sorta di supereroe che è un uomo uccello, da cui appunto il titolo Birdman, che lo mette di fronte alle sue responsabilità continuamente, lo mette all'angolo, gli fa capire chi sei e cosa vorresti essere. È un film che trovo straordinario, ben recitato e con dei dialoghi degni del Woody Allen della prima ora, quindi non vedo l'ora che si veda in Italia. Tra l'altro esce il 5 febbraio in Italia, quindi è prossima l'uscita italiana di questo straordinario Birdman. L'altro che hai detto giustamente, Grand Budapest Hotel, questo è uscito già durante la scorsa stagione, un po' onirico questo film, no? Assolutamente, questo è il cinema geometrico, centrato, colorato, surreale di Wes Anderson, e sono contento perché anche qui si va, se vogliamo, a sottolineare il lavoro di un regista che è sicuramente tra i più innovativi, non è uno che si appoggia a quello che già sapeva fare, ma è uno che in questo caso, per esempio, ai Golden Globe l'hanno messo nella categoria commedia, che gli sta un po' stretta, ma è effettivamente un film che ha il tono della commedia. Però vogliamo sentire un po' il tono? Vogliamo sentire un po' il tono? Sentiamolo. Perché vuoi fare il fattorino d'albergo? Chi non vorrebbe al Gran Budapest, signore? Posti di blocco ogni incrocio per 50 km. Posti di blocco ogni stazione dei treni per 100 km. Salta su! Voglio 50 uomini e 10 segugi pronti fra 5 minuti. Già i toni e la musichetta in sottofondo danno un'idea di commedia, ma probabilmente, come dicevi tu, sta un po' stretto. Qualcosa di un po' più importante. Sì, è qualcosa di un po', se vogliamo, questo Grand Budapest Hotel, questo con hotel tutto ambizione. Rosa, dove ne succedono di tutti. C'è un po' dentro Lubitsch, se vogliamo, ma c'è dentro anche un po' una sorta di metafora della vita fatta a scale, cioè chi scende c'è chi sale, diceva il maestro, no? In questo caso fatta a piani di un albergo, a ruoli, a fughe, a ritorni, a anziane signore che campano grazie a energici metri, insomma. Lo consigli? Tu lo consigli? Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi di andarlo a rivedere nel caso, soprattutto. Sì, dovrebbe essere tra l'altro già disponibile in un video, se non erro. Quindi, come dire, quello è. Perché è un film che in Italia è uscito da qualche mese. E poi c'è The Imitation Game che segue subito a ruota, no? Mi pare ottimo. Ma guarda, poi c'è da dire che continua il grande successo dei film ispirati in qualche modo alla matematica, che è diventata improvvisamente una materia molto calda, no? Perché se narrativamente tu pensa anche al successo di un autore negli ultimi anni come come ho di Freddi, no? Che è un matematico. Certo, che poi sono usciti anche dei fascicoli in edicola sulla matematica. Assolutamente, adesso, ma questo proprio sposa un interesse generale. The Imitation Game da una parte, la teoria del tutto, la storia di Stephen Hawking dall'altra, e lì sicuramente c'è la capacità di raccontare in due modi molto diversi, più classico la teoria del tutto, un po' più d'azione se vogliamo, The Imitation Game, di raccontare però appunto uomini che con le cifre e con la loro testa soprattutto hanno cambiato il mondo in qualche modo. Franco, noi purtroppo abbiamo pochissimo tempo, ti chiedo solo, poi ti ascolteranno meglio alla Rosa Purpurea a sabato alle 18.05, citiamo anche L'Unica Italiana, visto che Il Capitale Umano è uscito da possibili candidature. Solo se mi fai dire 5 secondi su Whiplash, che è la vera sorpresa di queste nomination, sì. Film straordinario visto al Festival di Torino, anche qui bravi quelli dei festival italiani, sul rapporto fra un batterista e il suo professore d'orchestra tiranno, rapporto mentore pupillo davvero da vedere. Whiplash, segnatevi il nome, speriamo che queste cinque nomination lo aiutino a uscire. Milena Canonero è l'unica candidata italiana agli Oscar 2015, costumista di grandissima levatura internazionale. Già tre Oscar, Assolutamente, ci hanno abituato i nostri costumisti, scenografi, eccetera, a essere presenti alle nomination, questa volta con i costumi di Grand Budapest Hotel. Insomma, speriamo davvero possa essere una presenza confermata fino alla fine. Incrociamo le dita, buone visioni a Franco D'Assisi. Grazie Franco. Ci sentiamo sabato sera. Ciao ciao. Ciao caro. A tra poco.